Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Salve, volevo dire una cosa seria, Cruciani. Io mi sono stufato di tutta questa gente che parla di integrazione, gente come Parenzo, gente come Saviano, perché premettiamo, l'integrazione è una cosa bellissima se solo venisse fatta, ma loro ne parlano loro castelli dorati, dalle loro case, dai parioli, come fa Parenzo, e non sanno cosa succede nelle periferie. E se tu ti lamenti perché quello che succede non è quello che dicono loro, sei fascista, sei razzista, allora io chiedo a Parenzo di non pulirci la coscienza con quei 100 euro al mese che darà l'associazione Rom. Io dico a Parenzo, a noi poveracci da educare, di dare un esempio concreto. Io oggi lancerò una petizione su change.org: Parenzo assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom. Fai un gesto, Parenzo, un gesto concreto. Io sono, come dici tu, un miserabile da educare. Fai un gesto concreto. Ah, pare, l'ultimo africano che hai visto è quando sei andato a ballare a Zanzibar. Capito? Senti, questo, l'ultimo africano che ha visto è quando è andato a ballare a Zanzibar. L'ultimo africano che avrà visto in vita sua. Capito? Capito. Parenzo, assumi la Rom. Giustamente, anzi io sono onorato di parlare con lei, signor Parenzo, anzi mi perdoni per la mia ignoranza. Mi sono semplicemente permesso di dire che purtroppo si fa sempre i forti con le persone più deboli. Quindi cosa succede? Che la signora Giuseppina è una sola, è facilissimo buttare fuori di casa una vecchietta. Questo qui è il pensiero del popolo. Io sono un populista e me ne vanto, caro Parenzo. Sono un populista e me ne vanto. Non ho detto rappresento il popolo italiano, ho detto rappresento quello che tanti vorrebbero dire e non hanno la forza di dire. Questo ho detto, non mi mette le parole che non dico. Naturalmente. Beh ragazzi, due commenti subito per iniziare, due cose veloci, veloci, veloci, caro Parenzo. Cosa vuoi dire? Due cose velocissime. Beh, allora, è in atto un'aggressione, la mia dichiarazione finale è questa e poi vi saluto. Qual è? È nata un'aggressione nei miei confronti che vede protagonisti da una parte il regista della Zanzara, la redazione e tu, capo supremo di questo Soviet, e dall'altra sì, tenaglia, il popolo dei miserabili. Ecco, queste due tenaglie hanno creato questa campagna diffamatoria e violenta nei miei confronti. Bene, ci vediamo in tribunale. Ma quale tribunale? Non ci capito. Vediamo nella mi petizione. Vuoi portare in tribunale? La petizione, ma io me ne sbatto le scatole. Le palle. No, per dire i coglioni, però non voglio essere volgare perché non dico mai le parolacce. Me ne sbatto le scatole di quella petizione lì. E sti cazzi! C'è una petizione online, cari amici, come avete sentito, una petizione online. Potete andare a firmarla in massa. Ma cosa dici? Change.org. Parenzo, assumi la Ma Rom. Ma non assumo nessuno. Parenzo, io assumi pago le tasse. Assumi Sabaeta anche per un'ora a settimana, due ore a settimana. Dai conforto ai tuoi amici Rom. Dai conforto in quel campo, il campo di Castel Romano. C'è la scabbia, ci sono le malattie, ci sono i delinquenti. Dici, lo so, c'è un bisogno sociale, di aiutare. Sì, bisogna aiutare. Lo Stato lo deve fare, no. La Raggi lo deve fare. No, Parenzo, assumi. Grillo, assumi la Rom. Grillo, assumi la Rom. Di Maio, assumi la Rom. Di Bo. il Dibba Di Battista assumi la Rom, no Parenzo. Parenzo è un libero cittadino, è un modesto giornalista, quindi non è che ha un'impresa, un'azienda. Assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom, assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom. Allora, l'altra cosa che voglio dire è che sì, agli italiani, al 100% degli italiani, già andare a votare è una rottura di coglioni, perché sanno che la maggior parte delle volte non serve assolutamente a nulla, comunque poi vanno per partecipazione, eccetera. In più, figuratevi cosa interessa agli italiani della legge elettorale. Cioè, vanno a votare con quello che c'è davanti in questa situazione, quando vedete le persone che vi dicono c'è il colpo di Stato, oppure dall'altra parte vi dicono c'è bisogno della governabilità. Non date retta a nessuno, vi vogliono prendere in giro. L'unica cosa chiara è che ognuno fa i propri interessi, non c'è nessuno che dice facciamo una cosa, anche perché ci sono 40.000 possibilità di fare una legge elettorale. Dunque non vi fidate, ragazzi, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, non c'è qualcuno che vuole fare una cosa al di là della propria convenienza contingente, al di là della propria convenienza di partito. Nessuno. Per Di Battista è in corso un colpo di Stato solo perché c'è il voto di fiducia sulla legge elettorale. Io, oltre ad atto eversivo, ho parlato di colpo di Stato istituzionale fatto a norma di legge da dei fuorilegge. Toninelli, 5 Stelle, il Parlamento non ha alcuna dignità. Questo Parlamento non ha più alcuna dignità di rappresentare i cittadini. Porre la fiducia, come il governo ha fatto, facendo la stessa cosa che nel 1923 fece sulla legge Acerbo un certo Mussolini, è qualche cosa che limita totalmente la dignità di questo Parlamento. Insomma, i grillini dicono è come ai tempi del Duce, ma ragazzi, ma vi rendete conto, no, delle cazzate che dite? Sì, bravo, meno male. Vi rendete conto delle minchiate che dite? Cosa c'entra il Duce? Cosa c'entra il fascismo con la legge elettorale? Ci sono mille possibilità di fare una legge elettorale, non è... La gente va a votare e mette una X su un partito, se siete forti vincete, se non siete forti ve la pigliate in quel posto, ma sì, qual è il punto? Diciamo, dai, che è maldestra la modalità che il governo e il Partito Democratico hanno scelto per far approvare questa legge. Ma secondo te interessa a qualcuno? Interessa a qualcuno? Visto che ne stiamo discutendo in modo civile, che è una bella legge di fiducia, no, ma visto ma che è una bella discussione che ha impostato finalmente a tavola, no, e quindi no, ti dico che è un'anomalia il fatto che il governo, cioè l'organo esecutivo, chieda la fiducia su una cosa che deve riguardare tutti i cittadini. Hai detto la cosa seria della serata. Passiamo al governo Sgarbi in stile la 7. Ora torno alla Zanzara. Passiamo. Vai a fanculo tu e la tua petizione, ti piace così? Ho detto prima la cosa in stile la 7, se mi mettevi anche sotto la musichetta di Porta a Porta, te lo dicevo anche in modo più istituzionale, se vuoi, se lo posso dire. Ecco, allora, buonasera, buonasera, benvenuti al pubblico di Porta a Porta. Stasera parleremo di legge elettorale e poi ci porremo la domanda: la signora Sabaeda, che vive in questo piccolo campo rom, come farà a trovare il lavoro? Ne parleremo stasera con i nostri graditi ospiti, il ministro Minniti, il ministro degli interni. Grazie per essere con noi, ministro, buonasera. Tra poco a Porta a Porta dopo il TG1 della sera. Alessandro, ecco, da Roma. Vedi come cambia il clima, però improvvisamente. Alessandro cambia da Roma scrive: caro Davide, è un miserabile che ti scrive. Tu che sei così civile, umano e pieno di misericordia verso i fratelli rom, fai un gesto che cambi le cose. Assumi la Rom. Noi, il popolino, noi non siamo stati in grado di integrare i fratelli rom. Per favore, il popolo della Zanzara che te lo chiede, dacci il buon esempio, illuminaci, mostraci la strada dell'integrazione. Assumi la Rom. Anche noi paghiamo le tasse, ma abbiamo il brutto vizio di vivere in periferia, vicino ai campi rom. Quindi, per favore, aiutaci tu. Con affetto, un miserabile. Questa petizione sarà consegnata a David Parenzo. Firma la petizione, Parenzo assumi la Rom, assumi Sabaeta del campo ormai praticamente disgraziato, il campo distrutto di Castelromano. Dicevo del governo Sgarbi che vuole depenalizzare il reato di parolaccia. Questo mi sembra un buon programma. La depenalizzazione del reato di parolaccia, che peraltro credo che sia già stato non depenalizzato. Esiste. Cioè, se tu mi offendi io ti posso querelare, ovviamente. Ma... Sgarbi è legge, senti. Io ritengo ogni azione giudiziaria contro di me illegittima. Mi hanno fatto delle, lo so, delle querele perché ho detto a uno, ho detto a Scalfaro non ha le palle. Dico, facciamo un incidente probatorio, vediamo se ce le ha, non so, dov'è la, oppure mi faccia il piacere. Cioè, lui gira parolaccia, tipo, molto, ho proposto di depenalizzare il reato di parolaccia, oggi dico solo capra perché stronzo vale 1000 euro, coglione 1500, basta, paghi come una multa. No? Processo di 20 anni, perché, ma com'è possibile? Ma questa è la giustizia? Ragazzi, ha perfettamente ragione. Se dice a qualcuno testa di cazzo, cioè, ma di che stiamo parlando? Beh, dai, uno su. Si arrabbia. Ma no? Si arrabbia e basta. Si arrabbia e ti dice testa di cazzo, sarai tu. Non è che ti porta in tribunale a ingolfare le aule di tribunale per una minchiata del genere. Dai, su, non diciamo cazzate, dai. Comunque il suo governo, governo di Sgarbi, che non, purtroppo non ci sarà mai, con Buffon, sua sorella, premier e anche Minniti. È un governo dei belli, dei buoni e dei bravi che chiamino ammirazione. Quando tu dici Bocelli, Bocelli nel mondo è riconosciuto come un bene culturale, come un tesoro national vivant. Quando dici Buffon, dice uno sportivo che ha senno, cervello. Quando dici Cristoforetti, dice una visione del mondo. Mia sorella è l'ultima, quindi nessuno di questi è vero. Ma non è che sono una presa in giro, perché uno vero c'è, Minniti. E questi sono la mia aspirazione a un governo di persone brave, capaci, intelligenti. A proposito della Rom che dovresti assumere, mi sembra abbastanza abbattuta da un collegamento che ha fatto con, credo, di martedì o una cosa di questo tipo. I topi saltano sul piatto, questo il campo Rom che Parenzo deve aiutare a risollevare, cioè deve aiutare Sabaeta a cambiare modo di vivere, deve aiutare Sabaeta a trasformarsi, a uscire fuori da quell'inferno. Ma fratello mio, ognuno lo fa con i propri mezzi. Io racconto gesto, quello che succede, gesto, non devo fare, io posso, non devo assumere. Io c'è, come lo no? Stato assumi che si deve Rom, occupare di questo. Rom, io per mia competenza posso raccontare, posso gettare una luce, un occhio di bue su tutte queste triste vicende Sabaeta e accendere la discussione. Vediamo pubblica. Vediamo il mio ruolo, non assumere. Topi saltano sui nostri piatti e hanno morduto un bambino. Anche l'italiano ha bisogno di correzioni, hanno morduto un bambino, ma va bene lo stesso, pieno di scabbia, vai. Non è che Donato Davarese parli tanto meglio, eh? Vai, oddio. Ecco, queste malattie. Guarda io. Vedi come si grattano tutta questa grave malattia, la scabbia grossa, infettiva malattia ce l'hanno. Guarda, pieno. Dai Parenzo, dai, all'attacco Parenzo, all'attacco, grande Parenzo, all'attacco, asfaltali tutti, siamo al top. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ma regà, se Parenzo se via la Rom, famo una colletta e gliela paghiamo tutti insieme, ma se la deve mettere dentro casa. Parenzo, non fare il ragno, assumila la Sabaeta, assumila! Parenzo, col cazzo che assume la Rom, lo sa che gli svuota la casa e si vende pure a lui. E bravo Parenzo! Beh, mi sembra che il grande popolo della Zanzara abbia già emesso un verdetto. Parenzo, assumi la Rom. Il dibattito pubblico che hai voluto impostare è falsato, è un dibattito falsato. Devi fare un gesto, il tuo buonismo. Ma io non devo assumere. Guarda, ha bisogno di un gesto nobile. Qui c'è l'errore colossale. Il tuo buonismo ha bisogno di un gesto nobile. Qui è l'errore dei populisti. Ma ti si chiede un'ora a settimana, due ore a settimana. Pensare che il privato cittadino debba risolvere le magagne di tutti. Allora tu hai preso il simbolo di Sabaeta. Non è così, io pago le tasse, tante tasse. Non ci interessa a noi. Perché lo Stato risolve i problemi, la politica risolve i problemi. Questi ragionamenti non ci interessano. Voi siete degli agitatori, agitatori di problemi. Voi appicciate il fuoco. Ma che appicciamo quello fate, quello fate. Disincentivate le imprese estere a investire in Italia. Perché ma quando mai? Qui, in questa radio lo fai, perché questo paese lo rappresenti male, come fosse pieno di Sabaeta. È vero che a Dubai, è vero che a Dubai, da quello che abbiamo appreso, parlano male della Zanzara, è vero, ce l'ho detto, poi a Dubai, capito? Mi sta rivenendo in mente quello che ha detto quella signora islamica l'altro giorno, no? Che a Dubai parlano male della Zanzara. Poi a Dubai, capisci? A Dubai parlano male della Zanzara, non è un paese dove c'è, sì, no, dove c'è la democrazia. Io sono stato io a Dubai, cosa c'entra? Dubai, no, no. curioso. Fosse vero, sarebbe paradossale. Allora, è il giorno in cui alcune attrici, tra cui una italiana che si chiama Asia Argento, sì, ho visto, hanno denunciato uno stupro avvenuto una ventina di anni fa, commesso da un signore che certamente sarà un porco, un maiale, un molestatore, uno stupratore, non lo sappiamo, alla certezza nei tribunali, che si chiama Weinstein e che è un produttore cinematografico. Allora, la signora Asia Argento scrive: ho denunciato uno stupro e per questo vengo considerata una troia. Cioè, le danno sulla della troia online. Io mi sono rotto i coglioni di questi che denunciano le cose online, mi stanno insultando online. Chi se ne frega? Non leggete internet e non rompete più i coglioni. Chiaro? Non leggete più internet e non rompete il cazzo. Se vi danno della troia su internet, basta spegnere i social, basta spegnere internet. Non rompete i coglioni a tutti con questa storia. Mi molestano su internet, no, mi minacciano. Ma vaffanculo, spegni e non rompere non i coglioni. Non deve esistere la minaccia, basta così, questa storia. Ma non è vero. Adesso ognuno si alza la mattina, mi stanno insultando sul web. Non lo leggere il web, non è obbligatorio. Denuncia chi ti insulta, ma che sì, scherzi. Va bene, denunciate, così i tribunali sono in base e non si fa più un cazzo. Basta con queste storie. Mi danno della troia su internet e chi se ne frega. Vivi lo stesso tranquilla se ti danno della troia su internet. E sti cazzi. Oh, bene. Allora, lei sarebbe stata costretta a fare sesso orale con questo produttore, no? Torniamo un po' tranquilli, torniamo pagati. E faccio come Locascio, là, che alterna momenti di ira, sì, momenti di tranquillità. Cioè, quello è si chiama bipolare. È bipolare, no, non è una malattia. Non c'entra niente. No, ma è una cosa che si può contenere con dei farmaci. Si chiama bipolare quello, non è. È una malattia, sai, esiste. Siete, siete gente bipolare. Dovete morire tutti all'inferno. Senti. Bastardi, stronzi, merdosi. Ciao. Ciao. Bipolare, come si chiama questo? Tecnicamente, chiedilo al professore Calcati, se non crede. Chiedilo a Crepè. Si chiama allora, bipolare. Allora, la sindrome. No, ma io mi sono rotto i coglioni di queste qua che si mettono a denunciare di essere molestate su internet. Basta, avete rotto il cazzo. No, poi noi ci andiamo sopra, commentiamo, diamo solidarietà. Mi sono rotto i coglioni pure di dare solidarietà. Mi sono rotto il cazzo. Ti insultano via Twitter, ti insultano via Facebook. Chiudi Facebook, chiudi Twitter, non romperci il cazzo. Ogni giorno si alza una, mi hanno detto troia su internet, e chi se ne frega? Non ci fare due marroni così, basta, non se ne può più, una cosa incredibile. Comunque torniamo a normale. Allora, signora Argento dice che è stata costretta a subire sesso orale da questo produttore. Poi successivamente ci ha fatto un film e pare che abbia avuto anche una relazione durata anni. Ma ora, vi pare normale una cosa del genere? Perché tutte queste qua, Gwyneth Paltrow e altre, Angelina Jolie, denunciano solo dopo 20 anni, dopo che questo qua era considerato uno dei re di Hollywood? Perché in quel mondo non hanno detto un cazzo fino adesso di questi cosa stupri, di queste molestie? Non vuol dire nulla. C'è qualcosa di che non quadra, no? C'è qualcosa, come non ah, vuol tu dire? Dici che è falsa, perché la non è denuncia? No, perché ma non forse è un po' anche per paura, sai? Per ah, per paura? Quando Gwyneth da sola. Paltrow, Angelina Jolie avevano paura di un produttore cinematografico maiale. Io non penso che abbiano bisogno dai, di soldi. Ragazzi, hai citato su di casi di donne che non è che hanno bisogno di soldi e quindi lucrano su ma questa storia. Magari c'è anche la vergogna, allora, no? La signora si Argento sentono che più protette perché sono in tante ad averlo subito e quindi insieme hanno preso allora, coraggio. Io dico, cioè, se tu fai un film dopo con quello, con lo stesso che ti ha è costretto a fare sesso, allora perché non gli hai dato un calcio sui coglioni sul momento? Perché non gli hai preso il pisello e gliel'hai strizzato così con le mani? Ma è normale, no? Va bene, posto che tu non lo volessi fare per paura, perché ci hai fatto un film dopo? Perché poi successivamente non lo so, hai fatto un film dopo. Sei andata a Cannes insieme, eccetera, e hai avuto, pare, sembra una specie di relazione, da quello che leggo, magari poi è sbagliato, una specie di relazione. Cioè, ragazzi, non potete 20 anni dopo sono stata stuprata. Sì, può darsi. Perché non l'hai denunciato 3-4 anni dopo, 5, 20 anni dopo? Pure queste attrici famose. Sì, è vero. Poi questo qua veniva omaggiato da tutti, anche dalla stessa Clinton. Dai, su. Chi c'è qua? Chi c'è? Leonardo dalla provincia di Macerata, vai. Che c'è? Sì, eccomi. Ciao, dimmi, buonasera. Dimmi. Niente, io volevo parlare a proposito della signora Peppina. Quella dai, di Piazza, vai, veloce, vai, dimmi. Della zona. Volevo fare una semplice domanda. Ma dove sono gli sfratti per tutti i rom che sono abusivi dappertutto, in tutta Italia? Dove sono tutti gli sfratti a Ischia che per un terremoto di 3.0 sono venuti sulle case? Dove sono? Cioè, a me mi sembra una cosa fuori al comune. Cioè, tu dici che cosa? Spiegami. Ma spiegami, semplicemente. Il pugno duro dello Stato contro questa poveretta di 95 anni che avrà fatto anche invece, questa casa. E invece? E dov'è il pugno duro dello Stato contro quelli di Ischia che erano contro gli abusivi di Ischia. Bravo, gli abusivi bravo, di Ischia, bravo, giusto, giusto. L'Italia è un posto di abusivi, compresi i parlamentari, secondo Pappalardo, ma lasciamo perdere. No, quello no, naturalmente. È un posto di abusivismo diffuso, Ischia, e mostri costruiti sulle spiagge italiane. E poi per una casetta di legno che non ha il permesso paesaggistico, ma vaffanculo, va, buttano fuori una vecchina, la costringono a stare in un container di 10 metri, posto che la figlia dovrebbe costringerla ad andare a casa sua, a forza, ma ci sono le scale da fare. Però è una vergogna, dai. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, ti voglio carico! Ciao Cruciani, un saluto anche al ruffiano del caculo Parenzo. Ecco, ma un Ivan su sti due cazzuti lì che fanno queste canzoncine, hanno avuto anche la fortuna di guadagnare 4 soldi, che cazzata è, i due lì, la ragazza lì, la moglie, il marito lì, quelli del fiume. Ma sai quanta gente che c'è in giro che sta male, sta peggio, e non ha avuto la fortuna che hanno avuto quelli lì, eh? Ma aiutano privatamente, che cazzo fai alla radio? Dai, tu c'hai l'accento romano, io c'ho l'accento bergamasco. Ciao, dai, ciao. Parenzo lecca culo ruffiano. Certo, come no? La Benson, 50 euro al giorno, gli rimandiamo subito. 1500 euro al mese. Un operaio con 3 figlie ne porta a casa 1200. Loro che sono stati tutta la vita in giro a fare pistola, i nani, adesso si accontentano di 1500 euro al mese. Dacci l'Iban che te li mandiamo subito. Ma va c'ha pirat, va. Voi della Zanzara siete proprio, tu soprattutto Giuseppe, sei proprio un paraculo, eh. Cioè, hai rotto il cazzo per 2 giorni per la signora, per la nonnina, Giuseppina, che è stata sfrattata, i soldi di qua, eccetera. Dopodiché ci rompi il cazzo con la signora Benson che si vuole suicidare perché è depressa. Depressa! Con tutti i soldi che si è beccata per fare, perché hai fatto la colletta per sti drogati, due deficienti che se ne stessero veramente loro in un container. Perché non fanno cambio? La signora Giuseppina va a casa del signor Benson e quell'alcolizzato drogato lì di Benson se ne va in mezzo al container. Vediamo chi si deprime poi. Non avete capito un cazzo! Sì, rieccoci. La signora Vladimir Luxuria ha scritto, mi sembra, magari più tardi la chiamiamo, parole definitive sulla questione Asia Argento, stupri, Hollywood e altre star che denunciano di essere state molestate da questo signore. Dice, scrive Luxuria: donne, staccatelo a chi vi forza a un rapporto orale. Non fateci un film dopo un anno andandoci insieme a Cannes. Asia Argento, ragazzi, è così, non c'è un cazzo da fare. 20 anni dopo denunciare di aver fatto un pompino, di aver fatto sesso orale, di essere stata costretta a farlo a un magnate della produzione cinematografica, e poi successivamente andarci a Cannes, lavorarci insieme, forse anche avere dei rapporti, non lo so, avere una relazione, questo non lo so, mi sembra una follia. Io non penso che si siano inventate follia. Tutto queste ragazze, anche perché non è che lo fanno per denaro o per notorietà. Ma chi ha detto che si è inventata qualcosa? Sono tutte donne fortunate, ricche e ma belle. Ma perché vent'anni dopo denunci? Non lo so, dai, ma sai, su, se veramente c'è una violenza, magari uno deve sedimentare, questo, sì, sedimentare questa violenza che ha avuto, questo dolore, e poi... Però nel pantheon dei populisti, nel pantheon degli editorialisti della Zanzara, c'è anche sulla vicenda di nonna Peppina, 95enne sfrattata, come sapete, inutile che vi ricapitolo tutto, entra anche Parenzo, un signore che si chiama Erfaina. Chi è? Ma io dico no, ma uno che vede questi servizi, no? Presidente della Repubblica, il Tribunale degli Esami, quelli dei macerati, chi cazzo vede sto video, no? Chi lo vede? Ma dentro, dentro! Qua dentro, perché fuori tanto c'è la fascia come il bronzo, non ve fate mai schifo e non ve vergognate mai. Dentro, non ve fate un po' schifo. Dentro non ve sentite un po' magna merda. Dentro, non ve ce se sentite. Direi un editoriale che potrebbe essere pubblicato nell'edizione di domani dei Il Sole 24. Ma chiesto, sentiamo ancora Erfaina. Ma cosa c'è da sapere da un signore che si chiama Erfaina poi? Ha sentito che ha detto che chiedeva solo un pizzico d'amore. A 95 anni. 95 anni. Io mi auguro a tutti voi, e mi auguro pure da solo, di arrivarci a 95 anni. Ma la dignità. Gli avete fatto buttare la dignità a una donna dei 95 anni che si è fatta un bucio di culo così per tutta la vita. Le feste. E continua Erfaina. Ma cosa continua? Ma... dentro a quel contel... Ma io dico no, il presidente della Repubblica non si vede dei giornali. Che cazzo fai alle 8 di sera? Vuole sapere che fa questa alle 8 di sera? Che fa? E il Papa! E il Papa! Ha detto pure dal Papa! Gli hanno scritto al Papa! Gli hanno scritto al presidente della Repubblica! Vabbè, magari ti arrivano 370.000 lettere! Cosa che io non ci credo, perché secondo me te scrive manco tu via. Ma non sapevi che c'è sta qua la signora lì, qua la cristiana, che sta rischiando di perdere la casa perché? Per un po' di burocrazia. Oddio, e abusivismo. Mortacci vostra. A Roma siamo pieni da abusivi. C'è sta una capanna sì e quattro no. Anzi, quattro sì e una no. Ma stiamo a pensare vecchia dei 95 anni che si è costruita la casetta dentro al parco naturale. Il signor Faina. Beh, ha uno strano argomentare il signor Faina. Adesso io non. Ecco, hai qualcosa da dire anche contro il Faina? Vuoi che ti scatino, no, ti scateno contro anche il Faina? Ma chi è? Poi dove si esprime questa gente? Sull'internet. Poi dici che è un posto l'uomo. Dalla sua cucina. Ma esattamente. Può essere anche dalla sua cantina, non mi interessa il luogo. Ma adesso che credibilità ha il signor Faina? Alberto da Torino, andiamo, forza, andiamo ragazzi, andiamo. Ma dove andiamo? Andiamo via, andiamo a casa. Forza che siamo carichi. Andate a quel paese, andate. Alberto, dimmi. Cos'è sta buffonata di Parenzo su Mila Rom, ragazzi? Questa è dalla parte tua, Davide, questa è dalla parte tua. Allora, Parenzo me la spiega in modo facile. No, però parli bene togliendo gli auricolari e tutti i cazzi. Gli auricolari sono qua, ecco. Vai, forza, parla bene, facci sentire bene la tua voce squillante pro parenziana, avanti, forza. Allora, io sto in strada tutto il giorno, giusto? Sì, pago il pedaggio. Sì. Non è che se trovo un buco in mezzo alla strada non posso imprecare contro il buco, devo prendere la pala, la carriola e ripararmelo da solo. Bravo. Porca troia, pago il pedaggio. Chi paga il pedaggio mi sistema quella cazzo di strada. Eh no, amico mio, questo è un esempio sbagliato, Alberto. Esatto, è un esempio sbagliato. E dimmi perché. Chi come Parenzo? No, ma non, chi come Parenzo non sostiene, cadere nella trappola di Cruciani, sostiene questo è il punto che vero. I Rom vanno aiutati dai mediatori culturali. Sostiene che no, è giusto anche che lo Stato paghi qualche cosa per il loro inserimento. Se sostiene che gli immigrati vanno accolti perché sono cercatori di felicità, e allora un piccolo sforzo, una piccolissima cosa, quando arriva una voce dal campo Rom di Castelromano, una voce forte di aiuto, una richiesta così forte di aiuto, di preghiera nei suoi confronti, perché a me non me ne fotte un cazzo della signora Sabaeta, sia chiaro, ma perché? Male, non me ne frega male, assolutamente male. Nulla. Quando arriva questa voce, Parenzo se ne dovrebbe in parte far carico. No, non è così per due motivi. Numero perché uno. No? Ma lo Stato non se ne deve occupare, c'è la Sabaeta. Si cercasse lei un lavoro da sola, si cercasse una casa da sola, lo Stato che cazzo c'entra? Lo Stato ha tante cose da pensare, non che può pensare a Sabaeta. Io non sono d'accordo con David sul fatto che i Rom debbano essere integrati. Non è questo il punto. Il punto è che lo Stato è delegato a controllare e risolvere tutti i problemi della società. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. Ma questa non è tutto. A risolvere le cose, certo. Non è che non ce la fa lo Stato. Vabbè, secondo te Parenzo non deve assumere la Rom? Questo è il punto. Ma no, ma io ti dico una cosa. Parenzo, per lui sarebbe molto più facile dare dei soldi alla Rom e sbattersi di coglioni. Lui si espone tutti i giorni, si fa sputare in faccia difendendo sta gente. Esatto. Lui fa molto di più. Poi sulla battaglia politica, di Rom e dargli quei 400. Quindi questa è della maggioranza silenziosa. A parte l'espressione che questo cazzo di Rom. Ma ha ragione, perché si adegua al luogo, si adegua al contesto nel quale. Ha detto cazzo di Rom, che non è un'espressione della maggioranza silenziosa. Però è un modo di dire. Non sono d'accordo con lui. Cioè sei un ibrido, né maggioranza silenziosa né crucianiano. Un po' di tutti e due. Filippo da Vicenza, vai. Eccoci Beppe. Vai, dimmi. Allora, io volevo parlare di napoletani. Vai, che devi dire dei napoletani? Avevo capito di napoletano. Sì, ma no, è quello più. No, non lo sapevo. Superato, un tema superato. Vai. No, tema superato. Tra qualche giorno in Veneto, insomma, ci sarà questo referendum per l'indipendenza. Posso dire Veneto, che non me ne fotto un cazzo di questo referendum. Non è sull'indipendenza, di quello, è sull'autonomia. È una minchiata di referendum. È sull'autonomia. Non c'è nessuna indipendenza. Sarebbe bello fare un referendum invece per staccare l'Italia dalla Campania e dalla Sicilia, queste due cazzo di regioni che continuano a divorare tutto. Perché dici? Perché la Sicilia c'ha una guardia forestale che è più grande di tutta quella del Canada. Amico mio, quando dici queste cose un po' mi scaldi il cuore, perché quando qualcuno continua a fare, non lo fanno più ormai la divisione in Italia tra migranti, non c'è più questa grande campagna antimeridionale che dovrebbe essere rinvigorita da un certo punto di vista. Anche una sua nobiltà. Regioni, per esempio, ragazzi, regioni orribili. La cosa che mi fa incazzare, lascia perdere la Campania e la Sicilia, perché la Calabria la vogliamo dimenticare. Cioè, il punto fondamentale è un altro. Ci sono ancora o no? Cosa? Chi? Ma certo che ci sei, stai parlando. Sopra già pensavo non mi avesse chiuso il microfono. No, amico mio, qui c'è una cosa. Mentre c'è una regione come la Calabria, la Calabria, e che succede? Vi dico, la Calabria, dove credo che le cose regolari, le cose a norma, si contino sulla dita di una mano. La Calabria, che è lì. Nessuno tocca nulla. Gli abbattimenti di case abusive in Calabria. Quanti sono gli abbattimenti di case abusive in Calabria? Quanti sono? La tutte, Calabria. Tutte queste regioni del cazzo. Vabbè, lascia perdere, questa è la tua idea. Che devi dire così, ma che modo però devi fare? Di fronte alla, ripeto, alla Calabria, dico Calabria, nessuno dice nulla, non ci sono abbattimenti di case abusive, tutto sta tranquillo, l'illegalità è diffusa, eccetera. E sparattono la signora Giuseppina? Perché non ha il permesso paesaggistico. Perché non ha un permesso paesaggistico. Mentre la Calabria illegale e abusiva sopravvive nei secoli dei secoli. Ma stai facendo un clacson su Calabria! Queste... Dico la Calabria! E dico, e basta. Ma stai facendo un clacson su questa roba della nonnina, che sarà importante, per carità. Ma adesso non è il caso centrale, la nonna che rischia di essere sfrattata, dai. Lasciativo Parenzo e alla defecarsi non ci penso. Parenzo, assumi la Rom. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Pronto, prima si parlava di Mussolini. In Oriani! Minchia Cruciani, tu sai veramente tirare fuori il peggio della gente. Sai vomitare addosso e farti vomitare addosso. Infatti a volte mi rompo i coglioni e giro, ma poi di là c'è Zucconi e allora torno da te. Cruciani, sei unico. Beh, come darti torto, amico mio, come darti torto. Intanto, caro David, cosa accade? Cosa accade? Meanwhile, vogliamo dire una cosa importante invece, ma vogliamo dirla una cosa importante. Una sola, però ti prego, una. No, mi interrompi, mi fai perdere il flusso. No, non volevo farti perdere il flusso, volevo dare un'informazione, perché in questi giorni inizieranno ad arrivare i tartufi, che sono eccezionali, ma volevo dirlo. Ma chi se ne frega? No, voglio dire, ma la pasta fai al tartufo. Ma che fai? Il coso, il lecchino dei... Lo sai che a me l'odore del tartufo mi ricorda quello del preservativo? Te l'ho mai detta questa cosa, l'ho detta più volte, sì. Sì, ogni però anno lo dico. Questa è una stagione per chi ma che fai il coso, il lecchino del produttore di tartufo, nessuno, però è una tradizione italiana e una bella spolverata di tartufo sopra un ottimo uovo all'occhio di bue è una cosa straordinaria. Stavo pensando a questo, avevo fame di questo, di tartufo. Oggi voglio solo mangiare. Se andate a controllare immediatamente nel conto corrente di Parenzo la finanza, vada a controllare se viene pagato dai produttori di tartufo italiani. Sarebbe gravissimo. Sarebbe una pubblicità in diretta e vergognosa ai produttori italiani di tartufo. Volevo dire semplicemente che questa è la stagione di tartufo. E allora aggiungo, non me ne fotte un cazzo, però aggiungo che a me l'odore del tartufo spesso mi fa venire in mente. No, mi fa venire in mente. Parlo come papà adesso, Parenzo, Luciano. Mi fa venire in mente il preservativo, i condom. Cioè il lubrificante del preservativo. Ragazzi, che ti devo dire? A me l'odore del tartufo, è per questo che non lo mangio, mangio pochissimo. Ogni volta mi fa venire in mente il lubrificante del condom, del preservativo. Dove sei cosa cresciuto? Già detta, ma ripetita, Juvan. Sed plure second. Pappalardo dice di essere spiato dalla polizia politica. Non esiste. Noi è da almeno un mese che veniamo spiati. Vengono persone che ci spiano, ci infiltrano. È una vergogna, c'è una polizia politica. C'è una polizia politica. Addirittura hanno messo delle persone dentro di noi per spiarci. E le abbiamo denunciati ai carabinieri. Le abbiamo... Ci hanno spiato, li abbiamo denunciati ai carabinieri, quelli della Digos. Non sappiamo se è uno della Digos, della polizia politica. Allora, questo tipo di malattia si chiama sindrome di Truman, che è una nevrosi terribile anche, per carità, paranoie, manie di persecuzione, schizofrenia, appunto la sindrome dell'essere spiati ha un nome specifico, si chiama sindrome di Truman, questo è quell'uomo. Il best of Pappalardo, vai! L'11 settembre è stata una data storica per la storia della Repubblica. Per la prima volta il popolo sovrano è andato a Roma e ha diffidato il capo dello Stato a sciogliere il Parlamento. Perché? Perché questi signori che stanno in Parlamento, governanti e parlamentari, sono tutti abusivi. Noi stiamo attivando un sistema per vedere se questi sono delinquenti o sono malati. Perché soggetti che insistono così tanto a rimanere attaccati alle poltrone potrebbero essere psichiatricamente malati. E quindi, per cui stiamo vedendo se non è il caso di applicare nei loro confronti il trattamento sanitario obbligatorio. Cioè prenderli e portarli in una casa di cura. Pappalardo dice che i politici vanno sottoposti al TSO. Vorrei confermare che diciamo chi parla di questo è il primo perché ecco la malattia è talmente pesante ormai, incipiente, che lui si rende conto di essere malato, malatissimo, però proietta questa cosa sugli altri. Poi si paragona a Che Guevara. È una missione politica. Sono come Che Guevara, non come Fidel Castro. Beh, l'Ariete. È un genio rinascimentale. Qualcuno mi ha detto che sono un genio rinascimentale. E ho ancora da comporre ben 8 opere, 7 serenate, 2 sinfonie. La Zanzara è venduta a Confindustria. No, non è venduta, è di Confindustria. Amico stranamente, ma è di Confindustria. Sono tutti abusivi, non possono stare lì. La Zanzara zitta, perché è venduta a Confindustria, lo sanno tutti, è pagata da Confindustria. E la Zanzara della Confindustria, e viene la Zanzara della Confindustria a rompere le scatole al popolo. Io faccio parte del popolo, Cruciani e Parenzo, io faccio da parte del popolo, non della Confindustria o dei poteri forti. Io i soldi ancora non li ricevo da nessuna parte, io vivo con quello che guadagno. Ci hanno spiato. Riccardo dalla provincia di Roma, vai. Ciao ragazzi, no, proprio da Roma. Vai Riccardo, però dai, no. Non si sente il cazzo, Giuseppe da Cremona, dai. No, fermo, via. Giuseppe da Cremona, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. Vedo di farvi perdere pochissimo tempo. Volevo dare la mia opinione sul discorso che avete detto prima sugli abusi. Già hai perso 15 secondi, vai, forza. Perso 15 secondi. Innanzitutto volevo dire che gli abusi, vabbè, ok, sono sbagliati sempre in ogni frangente, però ragazzi la tempistica non puoi venire fuori dopo 30 anni o dopo 20 anni, perché hai paura che la tua carriera sia compromessa in un ambiente oltretutto che è fatto di compromessi. Hai accettato quel compromesso? Nessuno ti ha detto di non accettarlo. Sappiamo adesso le ragioni. Potere, io... per è una cosa talmente delicata e intima che io non entrerei così come voi nella che minestra. Delicata, l'hanno spiattellata fuori loro, che è delicata. Ma di no, che? Beh, però è una cosa che riguarda loro. Certo, ma non farei una conversazione sullo stupro questo mancato qua era un o meno. Porco, era un porco, peraltro molto vicino ad ambienti, come dire, antitrampiani, democratici di Hollywood, eccetera. Cosa vuol dire? Questo signore, cosa vuol dire questo? No, per dire, questo cosa Weinstein è un maiale, ma è rimasto fino adesso vezzeggiato, coccolato da tutti gli attori di Washington. Nessuno ha avuto il coraggio di andare in tribunale tra questi famosi, tra questi VIP e presentare una denuncia. Perché ma non è stata presentata in tribunale una denuncia, no? Non l'hanno fatto neanche loro, hanno fatto un esposto al New York Times. Dai, su, sargento, le do 20 anni, dice, e poi si è presentato. Ma perché ti fa questa rabbia? Non ho capito, perché ti fa arrabbiare così? A me che me ne frega. Ma perché ti fa arrabbiare così? Quella ha subito, se ha subito uno stupro è giusto che denuncia, ha trovato il coraggio di farlo. 20 anni dopo? 21 anni dopo? 30 anni dopo? Ma che vuol dire? Esatto. È una buffonata. Ma che vuol dire? Dai. Quando tu subisci una violenza come quella non è che dici l'hai fatto ma prima, dopo. Ma c'è andata insieme dopo a Cannes, non ma so non dove è andata. Ma sappiamo, non lo so io. Come lo sappiamo? È vero. Come non lo sappiamo? È così. Chi te l'ha detto? Il generale? Chi te l'ha detto? Io vi dico solo che non si sputa nel piatto dove hai mangiato, perché se sei diventato una celebrità anche grazie a non mi sembravano schiavette costrette da questo Weinstein a fare qualche cosa e altrimenti non cosa ottenevo... sapete dai, voi ma cosa sapete l'unico? Voi di ragazzi, quel tipo Gwyneth di violenza Paltrow, e di pressione psicologica Paltrow, ma sono comunque delle donne anche se e sono allora delle grandi star di Hollywood. Che vuol dire? Possono aver subito delle pressioni anche loro e quindi le hanno accettate altre ma che vuol dire? Appunto accettato. Sono persone, non è che siccome sono delle star sono, anzi, sono alle volte ancora più fragili di miserabili come voi. Ma probabilmente pensavano di essere più brave a scopare che a recitare all'epoca, evidentemente. Io perché non darei questi non giudizi prestati, così terribili che come sta dando lei. Carlo della provincia di Bergamo, dai, Carlo della provincia di Bergamo, vai. Sono io? Dimmi, sì, fino a prova contraria. Ciao Giuseppe, parlo con te e non con quel fenomeno da freak show che c'hai in parte, che sì, fa veramente ridere, però dell'incoerenza che ha. Bene, sono contento. Ha esordito la trasmissione, sì? Facendoci tirare un sospiro di sollievo, dicendo, dico due cose, poi me ne vado. È ancora lì, è ancora i coroni a noi miserabili, sì. E vabbè, poi vai veloce, vai, che c'è, e poi giustifica queste attrici che evidentemente si sono prestate, se l'hanno fatto al gioco per loro. Ma perché vi fanno così rabbia queste attrici? Non ho capito. Sì, perché non scatta semplicemente perché sono ricche e belle e perché voi avete delle mogli cozze, brutte e stupide semplicemente per questo, perché proiettate nella vita degli altri i vostri insuccessi. Allora queste qui vi stanno antipatiche perché sono belle, ricche, fighe e non ve la daranno mai, e quindi anche se hanno subito una violenza e quindi siccome hanno subito una violenza però sotto sotto un po' vi fa piacere, mi fate schifo, mi fa schifo questo parola. Ragionare. Mi fa schifo, non c'è complicità e solidarietà, semplicemente perché per voi sono ricche, belle, non ve la daranno mai. E comunque, le vostre tristi esistenze Roma, sono esistenze brutte, scaldato, circondate da donne loro. Che sono delle racchie, cosa, che vi cucinano la minestra con la pasta al burro Roma, e vi rompono i coglioni. Tienitela in casa. Io per 20 anni, siccome ero convinto di quello che facevo, cioè la adozione a distanza, ho pagato questo? 500.000 lire a suo tempo, 250 euro dopo. No, io voglio dire, hai fatto qualcosa di concreto, dici tu. Hai fatto qualcosa. Ho aspettato lo Stato che ma io non vengo mica a dire a te quello che faccio di concreto. Ciao. Allora è con noi Vladimir Luxuria. Ciao Vladimir, come stai? Bene, salve. Allora, viene ciao, massacrata cara. La signora Luxuria perché ha scritto: donne, staccatelo a chi vi forza un rapporto orale, non fateci un film dopo un anno andandoci insieme a Cannes, Asia Argento. Il che secondo me è perfetto. Allora, c'è qualcosa che non torna in questa vicenda di Asia Argento, di Gwyneth Paltrow, eccetera, eccetera? Ovviamente tu non è che hai detto che è giusto che un uomo no, abusi di una donna, sarebbe una follia assoluta. Gli no? uomini che abusano delle donne sono dei pezzi di merda, detta proprio in francese. Tu taglieresti il pisello a questi uomini come vuoi fare? Allora, io consiglio, sì? Se c'è una donna che viene forzata ad avere un rapporto orale con un uomo in cambio di favori, se non lo vuole fare, sì? Questa donna deve staccarglielo, sì? Deve maciullarlo e ci fa il kit e cat per i gatti. tutti. No, io sono fuori. No, io sono assolutamente d'accordo, perché io credo che oggi una donna, tranne che non sia dei casi particolari di sottomissione, delle situazioni particolari, abbia tutte le possibilità, soprattutto un'attrice, eccetera, eccetera, di prendere a calci nei coglioni un uomo che vuole farsi un pompino, vuole farsi fare un pompino, che, o un sesso orale o quello che è, giusto, Vladimir? Allora, io mi dispiace molto che questa cosa riguardi me, Asia, che la conosco anche personalmente e che l'apprezzo tanto, ma c'è qualcosa che non mi torna in questa storia. Io sono purtroppo sono abituata a dire quello che penso, è normale, no? Certo, quindi certo. Io lo dico. Allora, se una dice che è stata costretta ad avere un rapporto orale con un produttore, sì, allora io va tutta la mia solidarietà alla vittima, perché io sto sempre dalla parte delle vittime. Però scusate, se poi io so che questa donna che ha avuto questo tipo di violenza, dopo un anno ci fa un film con il suo aguzzino, quindi si fa produrre il film dal suo aguzzino, ci va con lui insieme a Cannes, sì, a farsi, sì, fare le foto sul red carpet, e continua a frequentare questo produttore per 5 anni avendo rapporti consensuali, mi permettete di avere almeno un dubbio su questa cosa? Ma proprio per il rispetto nei confronti delle donne che hanno subito degli stupri, che hanno subito delle violenze, perché ti viene il dubbio di dire, ma perché, ma certo, questa, dopo che ha avuto questo trauma, io non dico che magari doveva denunciarlo subito, perché poi ognuno ha i suoi tempi. Io per esempio, appunto, mi sarei aspettato che visto, dico, che lei, esatto, ha fatto la trasmissione Amore Criminale, in cui chiedeva proprio alle donne di denunciare i propri aguzzini, sì, magari quella poteva essere anche l'occasione giusta per raccontare se stessa, ma non voglio io dire i tempi e come. Però, sì, però permettetemi, dai, che in questa vicenda c'è qualcosa che puzza, e io lo dico proprio per rispetto delle a quelle donne che subiscono violenza e, certo, soffrono. Senti, perché... ma, e non ti sembra strano, a parte che ti devo segnalare che hai la stessa posizione di Adinolfi, quasi la cosa ti farà rabbrividire, ma può accadere anche questo, insomma, no? Può accadere anche che Vladimir Luxuria si incontri su questa cosa con Adinolfi. Anche ad Adinolfi molte di queste vicende non tornano, e soprattutto io sto parlando di Asia, perché molte attrici invece hanno detto che hanno avuto questo tipo di avance ma che hanno rifiutato. Sì. No, quindi... ma molte hanno rifiutato. Cioè, secondo te oggi è possibile, oggi stiamo parlando di 20 anni fa, beh, comunque adesso... non è che stiamo parlando dell'800, stiamo parlando di 20 anni fa. Cioè, è possibile, a te è successo, per esempio, che qualcuno ti facesse delle avance per ottenere qualche posto, ottenere una parte, ottenere una presenza? Guarda, per molti sarò cessa, per molti sarò attraente, ma anch'io ho avuto una persona che mi ha fatto delle proposte. Certo, non dicendomi vieni a letto con me o non ti faccio fare questa cosa, era molto più subdola. Non è stata una violenza, io ho detto semplicemente no, non mi interessa, punto, non voglio aggiungere altro su questa vicenda. No, perché, ma sono, però è una persona del cinema, della televisione, almeno questo no, dimmelo. Lo so, adesso ti restringiamo il campo. No, della televisione sicuramente. Della politica. Dello spettacolo, dello spettacolo. Ora, detto questo, il messaggio che bisogna dire a queste ragazze non è ragazze cedete... e poi dopo magari 20 anni denunciate. Bisogna dire che queste ragazze hanno la possibilità e devono farlo, di denunciare subito. Ma sì, ma non cazzo, sono... intanto per... non andate da sole! Non andate da sole a questi incontri, andateci con qualcuno. Beh, alcune sono ingannate, dicevano che c'era una festa, in realtà non era una festa, cioè c'era tutto un inganno dietro. Però ragazzi, oggi queste qua non è che vivono nella Sicilia buia degli anni 50, non sono nelle periferie delle città italiane. Ma non vuol dire niente questa cosa. È un ambiente in cui se tu ti ribelli diventi un'icona, diventi un simbolo addirittura contro il produttore. E poi, scusate, dopo 20 anni, perché le attrici famose solo adesso, con la pancia piena, nel senso di denaro, si ribellano a questa cosa e attaccano? C'è un'omertà spaventosa da questo punto di vista, no? Su questo non c'è dubbio, no? Beh, poi comunque io sono una che quando qualcuno dice qualcosa no, non è che credo subito, cioè in generale. Allora non è che mo se viene una e mi dice guarda Cruciani ci ha provato con me altrimenti non mi faceva fare il programma in radio. Cioè, o uno dice, guarda, Vladimir Luxuria mi ha promesso di fare, che cazzo ne so, una cosa. Altrimenti, perché altrimenti qua diventa veramente pericoloso per tutti, no? Se basta dire... Però senza... comunque sesso in cambio di lavoro, a te te l'hanno offerto, questa è la realtà. Cioè ti hanno detto sesso in cambio, io riduco la questione a questo, sesso in cambio di lavoro, anche a te è successo? È successo che una persona in maniera molto educata, sicuramente non con... in maniera forzata, come detto Asia Argento, che è capitato a lei, quindi in maniera garbata, non forzata, mi ha fatto capire che gli sarebbe piaciuto. Puntini sospensivi. Io non ho ceduto, però il rapporto, diciamo così, di lavoro con questa persona non è andata avanti. Metterlo in correlazione diretta, non metterlo in correlazione diretta, non lo so, però io non mi sento di aver subito una violenza, perché ho detto semplice, grande, grosso no. Senti, ma recentemente una signora che si candida alle elezioni in Sicilia, sto cambiando argomento, ha detto che è una disgrazia essere trans. L'abbiamo intervistata anche noi, ha detto: essere trans è inutile nascondersi, io avrei preferito nascere uomo o donna, non transessuale, perché in fondo è una disgrazia. È stata attaccata dicendo che ha detto delle cose omofobe, ma secondo me ha semplicemente detto quello che pensa, cioè per lei è una disgrazia, è una profonda disgrazia. Non sei d'accordo su questa cosa? Guarda, è una disgrazia essere infelici, essere depressi, non sapere dove sbattere la testa. E io ti assicuro che conosco tanti eterosessuali, tanti uomini nati maschi, tante donne nate femmine che stanno malissimo. Questa si candida con l'UDC, che vengono a chiedere conforto a me che sono trans. Quindi che cosa vuol dire sentirsi disgraziate? Non vuol dire niente. Nella vita nasciamo esseri umani, dobbiamo cercare di raggiungere il più possibile quella cosa che si chiama felicità. Felicità. E non dipende dal fatto di essere gay o non gay. Se andate dai sessuologi, è pieno di gente etero che ha un sacco di problemi. Quindi smettiamola di dire che si è più o meno disgraziati in base all'orientamento. Tu sei orgogliosa di essere transessuale o no? Non certo che sono orgogliosa di essere trans. Ha fatto il percorso per forza. E sei, che ne dici? Ma mi sento molto più equilibrata di tanti che mi puntano il dito contro. Senti, ma siccome il sindaco Nardella a Firenze ha deciso di sanzionare la prostituzione, qui con Parenza abbiamo ingaggiato una battaglia pazzesca, perché come sai siamo su due posizioni opposte. C'è, non lo sfruttamento delle donne. Rimangare nel tuo passato, che tu ogni tanto dovresti invece riportare tu a galla ed esserne orgogliosa del passato tuo da prostituta. Che c'entra lei, magari della piccolo periodo in cui battevi? Per scelta, devi per essere scelta. Orgogliosa di questa roba qua, perché non è una macchia da togliersi. Che ne dici di Tardelli? Non dico che sono orgogliosa, perché poi non voglio neanche dare questo messaggio alle tante transessuali che ci sono, adolescenti, quindi ognuna deve fare un percorso diurno e socialmente accettato. Io dico a Nardella che adesso tutte queste prostitute si trasferiranno nei comuni limitrofi. Già è successo. Nel senso che si spostano. Allora, è vero, c'è un problema dello sfruttamento della prostituzione, lo si affronta arrestando coloro che sfruttano queste povere donne, non mettendo la multa a uno solo perché si ferma e magari sta chiacchierando, perché il problema c'è. Cioè, è giusto andare a puttane, è legittimo andare a puttane, sì. Uno coi soldi propri, se va con una donna consapevole che ha deciso di farlo, è libero di farlo. Anche se è difficile una donna che ha la consapevolezza del lavoro che fa, lo deve poter fare. Altra cosa, ripeto, vabbè, quella è la schiavitù, lo sfruttamento. Però non è che siamo noi che andiamo a prostituire, dico noi in generale, a dover sapere se quella è una costretta o no. Però se ci vai, qualche domanda te la devi fare, secondo me. Senti, non è che niente con l'avvicinarsi delle elezioni politiche, cara Luxuria, non ti viene in mente di tornare ai vecchi vizi? No. Ai vecchi vizi, una bella candidaturina, no? Guarda, infatti tutte le volte che scrivo qualcosa, la gente mi dice: ah, adesso lo fai per popolarità, adesso lo fai perché adesso vuoi candidarti. No, guarda, credimi. Te lo dico proprio col cuore in mano. Non ne sono all'altezza. Ma che non ne sei all'altezza? Ma che cazzo stai a dire? Ferma un attimo, altri due minuti dopo, ti devo togliere due minuti dopo. Fermi tutti, fermi. Sì. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, niente non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. La Zanzara. Viaggiando per l'Europa, in questo momento destinazione Stoccolma per il tour dei Rolling Stone, in cuffia la Zanzara e siamo al top, siamo veramente al top. Allora ragazzi, non vi voglio deprimere, abbiamo sempre con noi Vladimir Luxuria, ecco, bravo, caro Parenzo, però un veneziano ha scelto di andare in Svizzera per morire, per farsi siringare o farsi ammazzare in Svizzera, era malato dal 1977. Posso dire qui a te, caro David, che se dovesse finire male per il sottoscritto, se dovessi essere impedito, lascio qui una specie di testamento alla radio, se dovessi arrivare a non connettere più, ad avere una situazione disastrosa, ti prego utilizza i pochi spiccioli che magari mi rimangono nel conto corrente, perché li avrò spesi tutti nel frattempo, ti porterò io, guarda, ti dico cosa faremo. No, faremo... è seria questa cosa, ti prego. E ti porteremo tutto il grande carrozzone che hai costruito in questi anni, faremo un grande corteo, per la prima volta io incontrerò Donato da Varese e Mauro da Mantova, spingeremo la tua carrozzina, la tua macchina, non lo so, faremo un grande corteo, ci saranno i togni, ci saranno i leoni, ci saranno... Bravo, i cicchi mi piacciono molto, sì, ci cicchi. Saranno quelli che ti inseguono, i vegani che ti inseguono, ci saranno... Portami in Svizzera, voglio andare in Svizzera, perché il tanto... karma ci sarà, esatto. Faremo un grande carrozzone, ti porteremo tutti in Svizzera e poi sarò io che perché con dolore staccherò la spina. È chiaro che nel frattempo... O ti farò la puntura, quello esatto, che vuoi. È chiaro che... che nel frattempo ci saranno delle questo trans, paese, tutto questo, questo paese mondo. Di merda, questo paese di merda non avrà approvato una legge. Però io sono d'accordo con te, anch'io voglio allora, essere voglio molto serio. Allora anch'io... credo che anche Luxuria sia d'accordo, cioè se dovesse accadere qualcosa, per carità tocchiamoci, anche tu ti puoi toccare Vladimir in questo caso. Beh, puoi toccare anche le parti intime, lasciamo che ognuno faccia quel che sì, vuole, le ha tenute anche è per una questo. Signora è una signora, quindi tocca non ferro. Entro tocca non che tocca ferro, tocca quello ferro. Dove devi toccare e mi sembra chiaro che anche tu tocco quelle di uno che mi sta accanto, dai. Come uno di staccato? Scusa, vabbè, ognuno fa quello che gli pare. Volte sei fidanzata, no? Non sei... No, ma di che? No, avanti, sempre dai. Single? Sempre single. Ma com'è possibile questa single. Cosa qua? Ma Guido, tu potresti avere tutti i maschi che vuoi, diciamo la verità, perché un po' perché no, il genere attrae, come dire, no? Un po' perché sei una donna di spettacolo, ma hai un'agendina? Oppure ti piace il sesso, per esempio, all'improvviso? Cioè, come ti piace? Ma tu passi da una cosa, capito? Sì, esatto, fatto pazzo, pazzo, è pazzo. Acqua, capito? La gente in questo è bipolare, momento è un dalla morte alla vita. Vabbè, dalla morte alla vita. Eros e Thanatos, bravo. Eros e Thanatos, bravo. Allora, partiamo dal Thanatos, al Thanatos. Diciamo alla... che certi morti li ho trovati pure io anche se erano in vita, ma, ma lo, ti faresti ammazzare in Svizzera pure tu in caso di cose drammatiche o no? Lo vuoi fare anche tu? La, guarda, questo... io rifiuto di pensarci, però effettivamente anche io devo dire se avessi una di quelle malattie da dolori lancinanti senza nessuna speranza, certo. Ma perché devono essere gli altri a decidere per me? Cioè, esatto, ma perché? Esatto. Perché deve essere un medico a decidere per te? Voglio farla finita, punto e basta. Però passiamo invece all'Eros invece che al Thanatos. Allora, fidanzata, non sei fidanzata, hai detto. Il sesso ti piace più random, cioè al volo, di quelli che ne so, di una sera, di una botte B, oppure avere qualche storia che dura magari una settimana, 10 giorni, oppure degli scopa amici? Questo è interessante come cosa. È una... Perché voglio capire. Voglio capire. L'ultima. Degli scopa amici. Sì. Degli scopa amici. Cioè persone che. Detti anche tromba amici. Detti ecco. Anche tromba amici, sì, brava. Sei più trendy. Poi si dice sempre che è sempre il miglior amico che te lo mettere il culo, no? Sì. Questo anche è vero, questa questo la anche conversazione vero. Prende un altro no piano. Ma è una ottima conversazione, quelle che mi piacciono, cioè i trombamici e non, ma guarda, ma molto semplicemente perché non c'è molto tempo per, allora c'hai quelli, sono buoni, li conosci, sono discreti. Cioè, capito? Dotati, naturalmente, dotati per forza, quello mi sembra Salah Sandir. Dotati di, secondo, dotati di saperlo fare. Ecco, di saperlo fare, non no. Detto cioè, le misure non sono importanti, dici, le misure non sono importanti, cioè sono necessarie, ma non importanti, non decisive. Non esatto. Non, come si può definire? Lo dico io, non ti preoccupare, ti tolgo dall'imbarazzo. Cioè, necessarie ovviamente, ma non fondamentali. No, è ecco, sbagliata come cosa. Va bene. Beh, no. Beh, non lo so se la firmo, la firmo. Non lo so se appro- cioè uno con il pisello, diciamo alla Cruciani adesso. Atole. Una con il Atole, uno, le 20.04, aspetta, si palla di polcheria alla Lazio. Allora, uno con il pisello troppo grosso, ma è poco attrezzato c'è al problema sesso, con l'allosto. Che attrezzato, non attrezzato al sesso, lo preferisci oppure no? No, perché ingombra, se non sa ingombra, se non è bravo ingombra. Beh, caro Davide, ingombra, capito? Com'è la dottore, storia? Ingombra. Dottore, c'è cioè, ingombro in cucina. Hanno bene. Portato microonde. Ciao cara, ciao, presto. Ciao. Ciao. ragazzi, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Simone da Milano. Simone, sono carichissimo questa sera. Ti dico subito che sono carichissimo e voglio farti mi una sorpresa. Che palle sto sesso, vedi una donna molto simpatica. Ma chi se ne frega di quello che dice questa donna qua? Me ne sbatto, ma, puoi dire Giuseppe dice, anzi, lo starà ascoltando. Me ne sbatto però ha i coglioni. Perché il sesso va vissuto più che raccontato, va così anche banalizzato. Raccontato, va anche raccontato. Reso, ma che banalizzato, smettetela con queste cose. Mamma mia, Simone da Milano. Dai. Sì, è vero, esatto, brava, sei un guardone. Ecco, sì, sono un guardone. Ti piace guardare. Chiaro? Ma mi piace guardare. Questo si mi piace guardare, cioè, mentre scopano. Qual è il problema? Mi piace guardare. Sei un guardone. Mi piace guardare. Sei un guardone. Cioè, non è che ti diverti allora, e provi piacere per far piacere all'altra. Devi capire. Tu devi... sei un guardone. Brava, l'ha definito benissimo. Brava, sì, chi è questa qua? Dimmi. Non ti dico chi non è. Ti dico. Allora, io posso dire una cosa. Voglio tutelare la sua privacy. Amica cara. Arrivati a una certa età. Brava. Arrivati a una certa età. Perché non sai farlo. Aspetta. Esatto, brava, bravissima. Sei un guardone perché non sai farlo. Io mi faccio tramite di questa conversazione che mi arriva via SMS. Posso aggiungere, da questa cara persona. Posso adesso, condivido pienamente. Adesso, lei mi starà ascoltando via radio, dunque non c'è bisogno che tu fai da tramite in questo caso. Però voglio dire a questa gentile signora che è vero, sì, sono un guardone. Arrivati alla tenera età di 51 anni, c'entra, si può uno, fare. Sì, uno ha provato tutto e dunque, guardare diventa fondamentale. Ma leggiti un libro, cioè, allora, non riesci alla fine al cinema, ad eccitarti se non guardi un po', se non sei un po' guardone, non sempre naturalmente, però il guardonismo, lo sbirciare, il guardare, lo stare lì. Una roba da vecchi maiali, però da perversi, da gente che ha una sessualità disturbata. Amico mio. E poi Lorenzo, giustamente. Ma quant'è che non scopi? Adesso il giudizio della signora. Della figlia, come si chiama lei che non mi ricordo mai? Si chiama la figlia della signora Ornella Mutila. La signora Naike Rivelli. La signora Naike Rivelli. Chi è che stavo chiamando? Simone da Milano. Vai, Simone. Comunque hai poca fantasia se hai già fatto tutto, questo è vero. Mi scrive questa cosa giusta e definitiva. Hai poca fantasia se hai già fatto tutto. Che in realtà ci sono molte cose ancora questa da scoprire. Scopare, questa vuole scopare. Ma che la cosa dici? Ti critica giustamente. Questa vuole scopare. Ma cosa? Guarda, Simone, la conosco vai. Troppo bene, una persona Simone. Troppo per bene per vai, banalizzare così una discussione. Sì, pronto? Alla fine le cose vanno ridotta la loro essenzialità, no? Banalità. Simone da Milano, vai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Questo io è rimasto, chiamo buonasera, perché è rimasto. Io chiamo, io sono di Sesto San Giovanni, non sono di Milano. Ah, Sesto San Giovanni? Perché? Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni. Potrebbe cambiare in Sesto San Giovanni. Sesto non San Giovanni. Il sindaco di Sesto San Giovanni, vengo ad apprendere dalle cronache, ha deciso di non costruire più la moschea. È di Forza Italia. Di Forza Italia. Il PD e le comunità islamiche protestano, vogliono portarlo in tribunale. Forza amico mio. Cosa? Sindaco di Sesto. Bene così. Avanti tutta. Vale così. Avanti una tutta. Straordinaria. Avanti tutta. Avanti tutta. Prima le chiese nei paesi islamici, poi le moschee da noi. Vai, ma Simone. Cosa c'entra? Che ragionamento è questo? Questa è buona. Ma questa noi è buona. Siamo l'Occidente democratico, quindi non ci dobbiamo comparare a chi non ha la democrazia. Noi dobbiamo riaffermare i nostri volevano diritti. Volevano fare un grande centro islamico. È vero, perderemo qualche denaro, perché dà un grande centro islamico, una grande moschea a Sesto San Giovanni. Ma devi farli pregare le strade. Tu dici che sei di Sesto. Che dici tu, Simone? Sì, sì. Stavo dicendo, Cruciani, io sono di Sesto, possiamo erigere il comune di Sesto San Giovanni a baluardo della cristianità. Siamo riusciti a adesso questo non me ne fotte nulla a me della cristianità. Siamo riusciti a sconfiggere, diciamo, il Saladino, massa, dice, il Saladino. Massa informe di, ma lei cos'è riuscito a sconfiggere? Neanche la grammatica è riuscito a sconfiggere, la sintassi, niente. Ma non è riuscito a sconfiggere nulla lei. Gli ottomani non conquisteranno ottomani. Il territorio di Sesto San Giovanni. Gli ottomani. Gli ottomani. Siamo, ma gli ottomani, ma che cosa ne sa lei? Ragazzi, non me la mettete, non me la mettete sulla cristianità che va dei matti, la cristianità siamo me non me ne fotte nulla. Ma che siamo? Va bene, Luigi D'Ancona, vai, Luigi. Lei è una persona sola che chiama questa trasmissione. Questo Luigi siamo D'Ancona, dei crociati. Ragazzi, crociati? Segnalo una cosa. Dei cruciani, segnalo una cosa. Allora, aiuto. Non so se l'ho già detta, mi ho l'Alzheimer, ma con il sostegno della LAV, della Lega Antivivisezione. Questo non lo leggo con la mano. Lega Antivivisezione, sì. È stato riconosciuto a una dipendente il permesso retribuito per curare il cane. Il permesso retribuito. Questo non c'è nulla di male. No, dico solo questo. È un affetto, non c'è nulla di male. Benissimo. È una cosa civile. Retribuito per questo curare mi sembra il cane. Giusto. Che male c'è in questo? civile, certo. Civile, il permesso per, effetto, per retribuito, vabbè, capito, per curare il cane, vabbè, ma di cosa parliamo? Come si riesce a capire se quello è veramente il tuo cane o no? Puoi prendere il cane, vabbè, di un tuo amico malato, portarlo, certo, e farti dare i giorni. C'è il libretto sanitario del veterinario, dai, ragazzi, no? C'è il libretto del veterinario. Ora c'hai anche la questo è un grave motivo personale di famiglia previsto dalla normativa, sì. Ma di cosa parliamo? Che cos'è Vegania? Che cos'è Brambilla Land? Ma in cosa ci stiamo trasformando? In quale paese ci stiamo trasformando? Perché fai queste battaglie così su questa roba e non ti infervori con quella? Il grave motivo personale di famiglia, la morte di un cane. Beh, insomma, per cui uno essere, ha i giorni. Certo. Sì, può essere un motivo per essere lutto, tristi, certo. Per essere tristi, ma non per farti dare i giorni di riposo dall'azienda e fottere la tua azienda oppure il pubblico. Tuo diritto, ma che cosa vuoi fottere? Un tuo diritto. Motte, damo pure questo, come diceva una volta il mitico Riccardo da Roma. Mo vediamo tutto, pure i permessi dei cani. Ma dai, su. Riccardo. Luigi, dimmi, dai. Stiamo andando verso la rovina. Stiamo andando verso la rovina del mondo. Cioè il mondo sta per finire. Dopo che quando uno apprende queste notizie dice: cazzo, ma il mondo, ma siamo ancora nel mondo che conosciamo? I permessi retribuiti per la morte del cane. Ma ti indigni per delle cose assurde, tu alle volte ti indigni per delle cose incredibili. Sei veramente un involuto. Luigi, dimmi. Buonasera amici. Allora, sono qua per porre un problema filosofico. Lo so che può tediare il nostro caro Giuseppe, però è un problema filosofico importante. Parliamo di estetica qua. Cioè, Luigi, dimmi. C'è un problema grosso, perché sto discutendo moltissimo con i miei amici e sono anche gravemente toccato da questa cosa qua. Cioè? Il triangolino. Cioè il triangolino. La fica. Ecco un altro. No, di dirlo così, però è detto un po' volgarmente. Il triangolino cespuglio. Taci tu, no? Volgarmente io. Dici il triangolino cespuglio e poi fai il precisino con me quando io dico ecco figlio. Vabbè, un altro comunque, che pratica poco e ciarla e ciarla tanto. Ma ecco il centro. No, ecco. Dai, Luigi, dimmi, pelo pubblico. Io quanto adorerei che le vostre mogli o fidanzate mi ascoltassero. Ma lo fai, stai addosso a quello, lo fai parlare un attimo. Dai, Luigi, dimmi. Dai. Dimmi. No, voglio dire, è un problema perché ci sono tante persone che hanno la mia età che stanno accolti da questo problema qua, sono cresciuti con un'educazione al sublime, un'estetica dove il triangolino dà un equilibrio alla figura femminile. Adesso pare che vada di moda qualcos'altro, non va bene. Cioè, mi stai dicendo tutta questa costruzione, tutte queste iperboli, tutta questa queste frasi eccetera per dire che a te ti piace la figa pelosa, cioè questa è la sostanza, o comunque ti piace la figa col pelo. Questa è ridotta all'osso, la questione è questa o no? No, è ridotta all'osso sì, però è una questione di estetica. E vabbè, tu la metti come estetica, ti arrapa di più, amico mio. L'estetica è fatta perché uno poi provi delle sensazioni. Scusami, perché, che non voglio per l'adrenalina. Che interesse ha? No, lui ci sta riferendo, ma sarà più interessante della legge elettorale? Ma c'è una via di mezzo, c'è il tutta la questione. No, il c'è la questione catalana, ad esempio, che ma forse che è molto interessante da affrontare. Andrei, provincia di Parma. Andrei, fermo Luigi, Andrei, provincia di Parma. I gusti di questo qui, francamente. Dimmi Andrea, mi sentite bene? Ti sentiamo. Purtroppo sì, temo. Non si preoccupi, signor Parenzo, ne faremo tutti una ragione. Esatto. No, alla fine ci sono tecniche di governo politiche e tecniche di governo necessarie. Ahimè, questo secolo è necessario. Cominciamo male qua. E questo cominciamo io già male. Non l'ho cominciamo capito, male. Ma non importa. Andiamo allora, avanti. Vediamo se migliora. Andrei, situazione. Che cazzo vuoi? Cioè, adesso vado io subito diretto. Cosa minchia vuoi alle 20:13 in una giornata in cui sono molto carico? Devo caricarmi anche con voi che chiamate. Dunque fammi caricare bene, vai all'attacco, vai. Va benissimo, vuoi? Allora te lo spiego subito, fratello. Dimmi, fratello. Io ho bisogno del vostro mezzo multimediale di comunicazione, sì, per diffondere il verbo. Qual e è? Soprattutto per avere l'opportunità di essere preso in considerazione, sì, dare responsabilità alla mia parola, sì, che nessuno onestamente violi la mia privacy personale. Anche adesso perché ci pensi tu poi, ci pensi tu. Sì. No, David, ci penso io. Bisogna chiamare il professore Calcati, qualche psichiatra. Allora, la situazione è complessa. Andrei, continua, qui, continua, Andrei, continua. Prego. Chi sei tu innanzitutto? Andrei, per il momento sono Andrei. Sì, ma chi sei? Chi sei? Come, cosa ti professi? Che ruolo hai in questa società? Praticamente. Devo rispiegarti in breve o in lungo? Guardi, gli ultimi, chiudiamo alle 20:50. Chiudiamo alle 20:50. C'è tutto il tempo per mandarti a fare in culo. Cioè, che possiamo ridurre a pochi secondi oppure estendere di qualche minuto se mi fai capire chi cazzo sei e che cosa vuoi. Ok. Dimmi. Stupidamente, sì, mi sono messo in circostanze brutte, mi sono preso il mio primo mal di pancia in vita mia, sì, e sono morto e sono risorto. Sì. E la Bibbia a volte è all'incontrario, sì, perché Gesù Cristo non è risorto dopo, ma prima. Allora, le diamo il numero del generale Pappalardo, che raggruppa tutte personalità, chiamiamole così, del suo livello culturale e soprattutto del suo livello sanitario e psichico. Okay. Quindi le diamo subito il numero del generale, che sicuramente prontamente avrà una soluzione, arriverà in una lista. Cioè, non ho capito, qui mi segnalano però, di fede. Però qui mi segnalano dalla regia che c'è una sola scritta. Lui è il profeta. Ma lui chi? Lui, questo Andrei, cosa significa? Ti proclami un profeta, Andrei? E zitto. Non mi proclamo perché non sono pronto. Devo finire l'università. Allora, devo assimilare tante cose che mi mancano ancora del mondo. Però ho già capito un paio di cose. Cosa hai capito? Per esempio, onestamente, già questa chiamata mi appagherà di una cosa. Di che cosa? Intanto le persone cominceranno a parlare. Di che? In inglese, italiano. Di cosa? E non italiano. Ma di cosa? Quale chiamata? La chiamata di chi? Ma la chiamata di cosa? Io farei una chiamata all'ambulanza. No, Pappalardo, francamente bisogna chiamare Pappalardo perché potrebbe essere un candidato perfetto. Sì, sicuro. Fermi tutti. No, nessun candidato. Fermi tutti. Niente, mi fece fa un confermo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Parenzo assumi la rom. La Zanzara. Di puttana hanno messo la fiducia, i grandissimi figli di pulla, i cornuti e magnacci, merde, la legge, hanno messo la fiducia sul Rosatellum, hanno messo la fiducia. Ora gli italiani, quando ci saranno le elezioni, gli daranno la fiducia di nuovo a loro, secondo Social Media, che loro hanno fatto la legge che ci vogliono escludere a noi 5 star. Ora vediamo gli italiani se li escludono ai 5 star o se c'è un plebiscito. Ora vediamo quando si va a votare. Bastardoni politici infami, attaccati alla poltrona fino all'ultimo, figli di puttana. E oggi avete fatto l'ultima minchiata della vostra vita, bastardi. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presento La Zanzara. Cruciani, ho appena scoperto che mia moglie si cura la candida con l'aglio, nel senso che si schiaccia un spicchio d'aglio e se lo mette su nella vagina. Siamo al top. La verità è questa: fare sesso anale per amore, non per amore, lubrificanti, non lubrificanti, per non sentire male, l'unica è questa. In del cul, ag vol dur. Dopo 11 anni mia moglie mi ha dato il culo. E solo grazie a te, Cruciani. Grazie, Cruci. Grazie. Di niente, tesoro. Siamo qui anche per questo. Per questo. Che grande luogo di libertà e di educazione sessuale. Segnalo, caro David, che in un luogo che si chiama Dolce Acqua, io quelli della Lidl, guardi, non so che cosa hanno. Questi qua, non mi fare dire quello che penso sui signori della Lidl. Ti ricordi il caso dei due cacciati? E poi assolti successivamente, ma cacciati dall'azienda per aver ingabbiato la Rom. Certo. Ti ricordi? Sì, come? Sono stati poi assolutamente. Mi sembra una decisione. Sono stati prosciolti nel processo. Non era sequestro di persona. Hanno leso comunque l'immagine dell'azienda. La Lidl, ma che sei l'avvocato della Lidl? No, ma hanno leso l'immagine dell'azienda, evidentemente. I signori della Lidl colpiscono ancora in un paese che si chiama Dolce Acqua, provincia di Imperia. Hanno cancellato le croci delle chiese nella fotografia di questo paese che hanno esposto dentro il loro negozio per non urtare la sensibilità religiosa. Ora, a me, come sapete, delle chiese, delle croci mi importa poco, non sono ateo, non mi importa assolutamente nulla, però ci sono. Però sono un simbolo per qualcuno. Io non ci credo. Ma che necessità c'è di togliere? Non è che un islamico arriva lì alla cassa, vede una croce ed esce fuori dal locale e non compra i tuoi prodotti del cazzo. Dai, su. Detto questo, chiamiamo il campo rom di Castelromano per dare seguito alla petizione presente online. Parenzo, assumi la Rom. Non c'è da su, io assumi già una bravissima persona. Chiamiamo che lavora nella nostra famiglia, chiamiamo, che sta con noi, che è una persona di famiglia ormai. Dai un segnale, anzi, mi scrivo un avvocato, un mio carissimo amico che abita a Roma, amica anzi. Ho appena firmato la petizione Parenzo assumi la Rom. Cioè anche gli avvocati, non solo i miserabili, ma anche gli avvocati, gente seria, firma questa roba. Pronto? Pronto? Sì? Sabaeta? Qui Radio 24, come stai? Male. Che è successo? Che è successo? Ma che è successo? Sto in problema grande, non posso più vivere in questo campo perché sempre bruciano, fanno casini, mi danno fastidio. Ma chi? Chi brucia? Chi ti dà fastidio? Gli altri? I bambini a notte bruciano. Che bruciano i bambini? Bruciano le macchine, mondizia. Ma perché? Tutto, bisogna mandare una. Ma i bambini o gli adulti pure? No, ma solo bambini. Ho capito, ma i bambini dovrebbero dormire di notte, non è che possono mettersi a bruciare le macchine. Ma che dormano, passano tutte le bestie, tutti i delinquenti, tutti bestie. Beh, no, ma in che senso tutti i delinquenti? Rubano tutti, no? Ma anche rubano, anche... Diciamo la verità. Diciamola tutta la verità, perché altrimenti... Abbiamo detto, sì. Togliti questo peso dallo stomaco, sono molti, dai, sono ladri, dai, diciamolo. Sì, è vero. Ho capito, ma l'hai detto mille volte. Però non mi sa, a me non mi aiuta nessuno per portarmi dai, via da certo, questa... Va portata via, va salvata, e noi, ragione. Noi siamo qua, e noi no, giusto appunto sei siamo qua. Satana sei. Allora... cara Sabeta, c'è una petizione via internet. Aspetta, una petizione via internet per fare i lavori a casa di Parenzo. Ma non ho nessuna casa io adesso. Sabeta, non... sei disponibile ad andare a fare i lavori a casa di David? Dove? È al quartiere Prati, vabbè, a Roma. Ma chi è che urla? È il quartiere Prati a Roma. No, quartiere... non sono più lì adesso io. C'è il pullman, metro che posso sì, andare. La metro, c'è la metro, no, Ottaviano, c'è l'autobus, metro, tutto. Tolto tutto. Scusa, facciamo un punto. Tu puoi... Che cosa sai fare a casa, per esempio? Le pulizie le sai fare? Sì, come no. Anche il bagno? Io... Non ti dà fastidio pulire i cessi, il bagno, no? Perché deve darmi al cesso bagno per pulire... Così pulisco anche il mio bagno, perché non mi dà fastidio? No, quella casa degli altri, il cesso dove ha cagato Parenzo, magari ti dà fastidio. Io non ho bisogno al momento, chiedo scusa, non ho bisogno al momento. Sabeta, grazie molte, ma... Sabeta, le pulizie le puoi fare tranquillamente, sì? Ma sì, però quanto mi pagano per queste pulizie? Io adesso, in questo momento, non ho bisogno, grazie molte, aspetta. Altri che sono più interessati, poi, forse. Poi, sai stirare? Sì. Bene, cucire pure, magari se c'è qualche... Tutto. Vabbè, grazie, ma... Come, non ho capito? Con le mani, sì, con la macchinetta non sono capace. Ah, non sei capace di cucire con la macchinetta, e questo potrebbe essere un punto a sfavore. Senti, ma la cena, per esempio, tu la puoi servire la cena anche a tavola? Mia, io non ho... Sì. Cioè, per esempio, le brocche di vetro oppure le bottiglie di plastica, cosa sceglieresti, per esempio, tra le brocche di vetro o le bottiglie tutto, di plastica? Tutto, non è problema per questo, tanto sono una donna che... Lo so fare ordini. Sì, io grazie molte, cara. Però in questo momento, chiedo scusa, io non ho, ho già una persona che ci aiuta da tanti anni, che è parte della nostra famiglia. Non è problema, se vuoi, se no, io mi c'è il raddoppio, c'è il raddoppio. In questo puoi momento no, grazie. Puoi raddoppiare. Però puoi... posso segnalare, ad ma esempio, vuoi prendere Sabaeta a casa? C'è una petizione, prendi Sabaeta a casa. Fagli fare dei lavori, vuole andare fuori dal campo di Castelromano. Della petizione me ne sbatto della petizione. C'è qualche casa che mi offri. No, ma aspetta un attimo, secondo me c'è il direttore Sallusti, ad esempio, del direttore. Ma quello del, abita a Milano, non c'entra niente. Ma ogni tanto a viene a Roma, amico mio. Allora, Sabaeta, cosa sai fare a casa poi? Dimmi un po' cosa sai fare. Tutto, come vabbè, sa fare tutto, bravissimo. Le vostre italiane lo so fare anch'io. Brava, dimmi la verità, perché vuoi uscire da questo campo? Dove abiti da non qua? Non posso più vivere con delinquenti. No, mi danno fastidio, non posso più vivere. Se c'è qualche casetta abbandonata, io la giusto per me e vivo con i miei nipoti e basta. Ma cosa fanno questi delinquenti, a parte bruciare le macchine? Che cosa fanno? Vieni a vedere cosa fanno, ciao. Vai a vedere, Cruciani, bravo, hai ragione, vai a vedere. Non sto bene, non voglio con Rom più vivere. Non voglio sapere di Rom niente. e io voglio solo uscire da questo campo, da questo inferno. Che malattie, che tumori, mamma che tutto. Mia, che disastro. Ma io non ce la faccio più. I bambini ci avevano una scabbia piena di bolle che sono cresciuti. Invece siamo senza acqua tutta l'estate. Porca siamo senza luce, siamo qua in pericolo. Abbiamo preso le infettive malattie, bambini ce l'hanno, uomini, mamma donne. Mia. Vabbè, Sabaeta, ti saluto, va. Mi ti pare saluto. Una situazione ciao. Drammatica, ciao. Cara. Ciao. Ciao, ciao, ciao, cara. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la Zanzara. In diretta sono. Giuseppe, ciao, sono Giovanni di Reggio Calabria. Ti voglio dire una cosa, Walter Veltroni si batte per lo Ius Soli. Che lui faccia una cosa, dia il suo appartamento che ha a Roma e vada ad abitare a Manhattan, dove ha un appartamento di stralusso, e l'appartamento di Roma che lo dia a questi qua dello Ius Soli, ai negri, ai negracci. Lui si è comprato un appartamento a Manhattan. Come? Boh, a te la risposta, se la conosci. Come Macron. Giovanni da Reggio Calabria, ma che ne sa, colpisce che ne sa. Ancora. Ma cosa colpisce? Nel senso che non lo hanno ancora prelevato e portato in una struttura adeguata, protetta, con persone che gli vogliono bene, gli fanno una carezza, gli danno dei farmaci, soprattutto 2 o 3 volte al giorno, prima di coricarsi, prima dei pasti. Ragazzi, vi ripeto, no. Andate su change.org, firma la petizione, Parenzo assumi la Roma. Non c'è nessuna petizione e nessuna Roma da assumere. C'è un paese da cambiare, ragazzi. Rimboccatevi le maniche. C'è una politica da rimettere in campo, ci sono delle soluzioni da trovare, abbiamo tanto lavoro da fare e c'è un'opinione pubblica da sensibilizzare ogni sera, certo, rispetto al dubbio. Tema della marginalità sociale. Cosa ridi? La marginalità ridi sociale. No, allora, caro David, è un miserabile che ti scrivo, questo recita la petizione. Tu che sei così civile, umano, pieno di misericordia verso i fratelli Rom, fai un gesto che cambi le cose, assumi la Rom, non noi, il popolino, che cazzo scrive questo? Non siamo stati in grado di integrare i fratelli Rom, per favore, il popolo della Zanzara che te lo chiede, dacci il buon esempio, illuminaci, mostraci la strada dell'integrazione, assumi la Rom, anche noi paghiamo le tasse, abbiamo il brutto vizio di vivere in periferia, vicino ai campi Rom, quindi per favore aiutaci tu, con affetto, un miserabile. Questa petizione sarà consegnata a David Parenzo. Non sarà consegnata. Ragazzi, firmate change.org, firma la petizione, Parenzo assumi la Roma, non ti puoi tirare indietro. Pietro Udine, vai. Io ho firmato la petizione Ero straniero, la campagna dei radicali, questo te lo voglio pensa dire, come sei ridotta. Per l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Ma campagna Ero straniero www.radicali.it. Va bene, Pietro, vai. No, vabbè. Mi senti? Vabbè, sì, Pietro, se vuoi te lo faccio sentire. C'è contro alla Zanzara, è controproducente. C'è l'appello di Parenzo per gli Ussoli. Sentite, fatemi sentire l'appello di Parenzo per gli Ussoli. Respiriamo, deriva proprio dal fatto. Aspetta, scusami. Aspetta, fai partire, vai. Eccolo. Vai. Via. Attenzione, che sta parte adesso. Vai, si deve caricare. Perché, forza, che cazzo c'hai? C'è il 3G debole alla. Sei una capra di merda. Aspetta, vai. Adesso non parte. Vai. Vai. Non parte. Fai parlare, intanto. Pietro, vai. Ciao, Peppe. Senti un attimo, mi ha dato Ero straniero, sì. Perché ritengo che in questo momento nel nostro paese non siano gli immigrati a portare la malaria o le malattie, come viene detto, ma la malaria, cioè quella cattiva aria che tutti noi respiriamo, deriva proprio dal fatto che invece la paura dello straniero va governata. E allora l'unico modo è quello di abolire questa legge incredibile che è la legge Bossi-Fini, che rende illegale ciò che invece non dovrebbe essere illegale, quindi legalizzare l'immigrazione è l'unico modo per sconfiggere e combattere la paura. Questa è la vera malattia che va sconfitta, cioè la paura. Non ho sentito bene. Esti cazzi. Chi ha messo? Non finisce così la cosa. Pietro, vai. Mi sentite? Sì, vai. Senti, settimana scorsa hai detto che ti invitano sempre ad andare al welcome, no? Però tu non puoi andare al welcome in Austria, esatto, sì. Esatto, mi invitano, sono, sì. Sono mezzo austriaco io, quindi... Sì, ma che sei il manager dei bordelli austriaci? Non ho capito, che fai no, la marchetta, sono, no? Mio papà è austriaco e sono italiano, sono di Udine, sono a un'ora dal welcome. Ci sono andato un sacco di volte, insomma. Dunque? Dunque, tu hai detto che non puoi andarci perché... Sei lavoro dal lunedì al venerdì dalle 6:30. No, ma non è quello, non ci posso andare anche perché amico mio, poi mi riconoscono tutti lì ai bordelli. Appunto, ma perché non vai a fare una bella presentazione lì una giornata? Una puntata della Zanzara dal web. Questa potrebbe essere una buona idea, fare una puntata della Zanzara da un bordello. Questa potrebbe essere un'ottima idea. Immagina. Sì, il problema è una frontiera effettivamente ancora non esplorata. Ma se tu registi da Roma e quell'altro da Milano, quindi si può fare. In pratica tu vai là. No, amico mio, non conosci bene gli aspetti tecnici di come funziona questa cosa. Non li conosco neanche io. Facciamo una cosa, avvaliamo questa idea qua. Posso dirti un'ultima cosa, solo una? Amico mio, stai facendo tutto da solo, vai pure, dimmi, dai. Riguardo il discorso del tipo con la Ferrari, con i genitori... La Ferrari, i genitori, ma che cazzo dici? Quello là di... Esatto, lui dice che non è vero niente, che era solo di un piccolo pezzo di macchina dentro la zona riservata agli handicappati, insomma ai disabili. Allora... Poi, insomma... Avevi sempre detto tu che ci sono tante persone dirigenti della Ferrari che ascoltano la Zanzara. Io direi di consigliargli di denunciare questo signore per danno d'immagine, non per altre cose. Vabbè, sei rimasto un po' indietro, l'abbiamo già detto. Ciao Pietro, ciao. Come no, ciao. Allora ragazzi, tra i sostenitori del signor Pappalardo... Io sono impazzito con Pappalardo, non lo so, cioè sono impazzito con la figura di Pappalardo. C'è anche uno dei templari. C'è chi impazzisce per Einaudi, esatto, e chi per Pappalardo. Un appartenente ai templari. Come cazzo si chiama questo qua? Come si chiama questo? Gianfelici. Chiamiamolo. Pronto? Sì, buonasera. Sto parlando con il signor Gianfelici? Sto parlando con Roberto Gianfelici. Sì, buonasera. Dell'Ordine dei Templari? Della Confraternita Templare, sì. Sì, buonasera. Io ho visto un suo video sull'internet, non so se sì. È presente, in cui lei sì. Esprime il suo appoggio al movimento del generale Pappalardo. L'appoggio e la presenza, sì. L'appoggio e la presenza. Ecco, ci può spiegare qual è il legame tra l'Ordine dei Templari? Io mi chiamo Cruciani, lavoro per... No, non parliamo di nessun ordine. È una confraternita di volontariato. Sì, certo. E comunque devota e a servizio dei deboli, delle sì. famiglie, dei sì. giovani e di quanto stanno soffrendo in questo momento. Quindi non c'è ascoltando dubbio. La voce del generale sì. che condividiamo. Condividiamo abbiamo, chi? Noi italiani la condividiamo in questo momento particolare. Ma qual è l'appoggio che possono dare i templari al generale Papa? Allora, l'appoggio è una solidarietà intanto. Non è che partiamo per una crociata, non siamo un ordine cavalleresco sì. o comunque un ordine. Cosa tanto. Ci trova nel generale Pappalardo lei? Il coraggio. Il coraggio, signor Pappalardo. Il coraggio. Poi? Il coraggio. La fede, il coraggio. La fede pure, eh? Sì. Ha la leadership necessaria a guidare questo disgraziato paese? Ha i numeri a posto, possiamo dire così. Sì, non ha i venerdì a posto. Moralità, il senso della legalità fondata proprio sì. all'interno, quindi moralità e legalità poi sono quelle cose più, non c'è dubbio. Più importanti. Questi parlamentari, come li considera lei, quelli che ci sono adesso? Tutti legittimi, tutti immorali? Loro non riescono a capire, come non capiamo sì. tutti quanti, che siamo ospiti. Noi siamo ospiti nel mondo, terra. Dice, sulla terra. Ma certo, dice non ci voglia o no, questo siamo venuti per andare e non per restare. Quindi, questo è importante, cioè, Parenzo, questo è importante. Cosa giova restare un anno, due anni, tre anni no, se non si salva o comunque nulla. Non si porta avanti quello che è il programma, quello che poi è lei dice alla fine, dovrebbe essere l'espressione dei cittadini. Questo è importante, questo concetto è importantissimo. Cioè lei dice che noi su questa terra siamo tutti ospiti, sì. siamo tutti alla fine sì, siamo sì, ospiti sì, di questa terra sì. e dunque no, siamo venuti per andare, non per restare, quindi sì. perché non adoperare? Lei può andare. Perché? No, non aspetto più. Anche... Lei può andare. Lei solo Parenzo, salve. Ne ho chiedo scusa, signor Templare. Signor Templare, chiedo chiedo scusa, signor Templare. Signore solo uno. Signor Templare, ho sentito molto in silenzio, rispettando la volontà del dottor Cruciani. Forse devo dire troppo, per quanto io sia pagato bene dalla Confindustria, forse ho sentito fin troppo. Intanto l'uso del noi, il popolo italiano, noi chi? Lei è un signore che si fa chiamare Templare. Mettiamo le cose a posto, no, perché non c'è nessuna confraternita. No, è come dire interlocutoria per ora è interlocutoria. Senta, lei sta puntando il dito, no, su una persona che si adopera nel sociale. Scusi, no? Signore, lei va, lei su internet va sempre vestito lì con la tunica, con travestito da Templare, con la croce rossa lì, con travestito, questo mantello bianco. No, non sono un travestito, ma sono una persona presente. Attenzione, non quale travestiti? Che le danno fastidio i travestiti? Forse lei ha sbagliato persona, perché io sono un uomo, non sono un travestito. Ma che le danno fastidio i trans? I trans le danno fastidio? Lei, i trans le danno fastidio? Se vuol continuare su questo tono. No, per carità, no. Io mi adeguo al tono. La storia è molto semplice. La confraternita dei Templari appoggia il movimento del generale Pappalardo. Questo è il punto fondamentale. È fondamentale. Il paese si può risollevare o no, il paese, secondo lei? Il paese. Grazie al vostro apporto, naturalmente, a questa convergenza, a questa unione. Grazie al nostro apporto, assolutamente. Cosa? Il paese si risolleva se tutta la gente scende in piazza in e piazza, viene ascoltata. Se non viene ascoltata, purtroppo. Questo accordo tra la confraternita e Pappalardo ha un suo. Non c'è nessun accordo. C'è un pensiero. Sì. Un pensiero che poi è il pensiero della maggior parte di tutti noi, e ripeto, noi. La maggior parte di tutti noi, di tutti gli italiani. Ma tu noi chi? Ma lei non rappresenta gli italiani. Rappresenta che cosa devo dire? Al limite, lei rappresenta se stesso rappresenta. Lei col mantello bianco, rappresenta se stesso. Allora perché se la sta prendendo tanto con me? Ma no, ma perché lei sono insignificante, no? Ma no, ma lei, ecco, cominciamo finalmente a ragionare. Lei con quel mantello bianco che si appella ai Templari. Lei ascolti, da fastidio il battello bianco. Sì, non mi sta sui coglioni, perché il battello bianco non so come meno male. Il battello bianco meno male. Allora guardi, a me invece danno fastidio i giornalisti che sono venduti. A chi sono venduti? Sono venduti i giornalisti? Chi? Alle grandi lobby, ai politici, a tutti i grandi lobby. Sono parole anche del generale Pappalardo. Non è una certificazione di garanzia, è un aggravante. Le auguro un buon lavoro, tanto lo stipendio da voi è assicurato. Sì, quello ci mancherebbe altro. Sono le parole di Pappalardo, mei coglioni. Con questa trasmissione della zanzara della minchia. Parenzo assumi la rom, change.org, Parenzo assumi la rom. Civile da fare, c'è una mobilitazione da organizzare, ci sono delle vite da salvare, c'è un campo rom che va evidentemente chiuso e trovata una soluzione. Abbiamo sentito il grido di rabbia Pasquale della signora D'Alecce. Che abbiamo sentito, assumila, non sono io, assumila. Ma non è l'assunzione di una Pasquale persona D'Alecce che risolve un problema. Vai, poi io pago le tasse perché qualcuno risolve. Dunque volevo dire che praticamente il 99% delle donne trombabili, ecco, intendo dire che non sono dei cessi disumani, si farebbero trombare volentieri dagli uomini potenti. Allora, questa è una riflessione interessante. Io stesso ho un amico, un amico che è un giudice, non è né bello né simpatico né attraente né affascinante, però approfittando del suo status di giudice, presentandosi di tanto in tanto con un regalino, una borsa di Gucci, eccetera, eccetera, riesce a trombarsi una donna a settimana. Questo perché? Quindi senza arrivare al manager cinematografico così lontano in America. Riesce a trombarsene col consenso, evidentemente, no? Ma qui col consenso. Allora io ho sentito parlare prima di un rapporto orale forzato. Mi spiegate come si fa a mettere un pene nel cavo orale adesso di una donna in modo forzato? Fa la moviola, fa la moviola. Effettivamente sembra fa la moviola. Cruciani, tu stesso, Cruciani, secondo me ti faresti trombare, ne sono convinto, perché tu sei una persona aperta, ti faresti trombare la moglie da un magnate, se magari fossi certo che una settimana dopo La moglie potrebbe diventare un'attrice, una persona famosa. Ah, no, questo non me ne frega. Questo non aspetta, Pasquale, dobbiamo riprendere domani. Sì. Però ti dico subito una cosa: che quello che tu chiami il pompino forzato, il sesso orale forzato, in realtà uno può essere soggiogato per diversi motivi. Vede il produttore di un film, e ripeto, abbiamo criticato la cosa di Sergento in tutto e per tutto. Però se uno ha 21 anni, io l'ho criticato, certo, perché dopo 20 anni non te ne puoi uscire così. Beh, io non credo però che sia se uno vuole rimanere così. Al produttore, il produttore cinematografico sta lì, ti si fa accogliere con la vestaglia, tira fuori quello che deve tirare fuori e ti costringe, tra virgolette, cioè ti mentalmente ti costringe a fare una cosa, altrimenti tu non ottieni un film. Poi secondo me non ottieni una parte, eccetera. Poi tu hai tutta la possibilità di tirare fuori, di dare un calcio e di andartene, sicuramente. Però uno può essere psicologicamente costretto a fare una cosa, non è che tecnicamente, poi è chiaro che tecnicamente è impossibile. Fermi tutti, a domani, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.